Talk, Sputnik on Radio. Del Capo, Radio Metropolitana 94.7, 96.250. Siamo su Moon Talk con Chiara e Marta e stasera vi parleremo, o più che altro vi faremo ascoltare, dell'elettro scandinavo. Ricordiamo che potete ascoltare le altre nostre puntate sul nostro blog, quindi www.montalkradio.blogspot.com. Ok, e invece se volete iscriverci potete farlo su montalkradio@gmail.com. Ok, quindi passiamo subito alla puntata e come primo pezzo vorremmo farvi sentire Il perro del mar, che secondo noi è una delle canzoni più carine. Con Change of Heart. Il perro del mar è un pseudonimo di Sarah Asbring, boh. Sicuramente oggi pronunceremo tutto giusto. Svedese. Il perro del mar, che significa il cane del mare, boh, anche questo. Esce con Love is Not Pop per la Licking Fingers nel maggio scorso, che è stato prodotto da Rasmund Haag, ovvero una metà del duo elettro scandinavo studio, che si chiama Studio. Carini loro. Ok, quindi andiamo a sentire Il perro del mar con Change of Heart. We will never stop. Questo era Il perro del mar con Change of Heart, non proprio un pezzo... Non siamo partiti molto... No, electro. No. Però dai, questo è un pezzo così. Bellissimo, secondo me tra i più belli, tra l'altro, del 2009. Uscito, sì, che è uscito l'anno scorso. Quindi adesso passiamo? Adesso vi faccio sentire un gruppo che si chiamano Bot Club, anche loro svedesi di Gothenburg, e sono un duo composto da Andreas e da Magnus, si pronuncerà così, chi lo sa... E, già attivi in un'altra band chiamata City Lights e, è uscito il disco nel 2008 che si chiama Caught the Breeze per l'etichetta Luxury e vi faccio sentire la canzone sempre estratta da questo disco che si chiama All the Time. Ok. Thank you. questa era All the Time dei Boat Club. Carina. Sì, molto, molto rilassante. Sì, ma più elettro. Un po', andiamo in crescendo. Ok. Quindi adesso invece ascolteremo JJ, che sono dei misteriosi svedesi che fanno pop elettro, che faranno uscire tra poco JJ numero 3, dopo JJ numero 2, uscito per Sincerely Yours quest'estate. JJ numero 3 invece uscirà con la Secretly Canadian. Sì, loro sono molto hype, sì. Se ne parla molto nei blog. Sì, sì, se ne parla tantissimo. Il nome JJ fa riferimento al film francese Jules et Jim di Truffaut, basato appunto sul romanzo di Rocher. La band è uscita prima col singolo JJ numero 1, quindi che era solo un singolo, all'inizio del 2009, e poi qualche mese dopo con il disco JJ numero 2. Pitchfork, diciamo, sì. Ne ha promossi tantissimo. Mi ha dato, mi sembra, 8.5, un voto molto alto. E che ha portato fortuna al gruppo, sì. Considerando che adesso appunto usciranno con Secretly Canadian, JJ numero 3, e tra poco faranno anche un tour con gli XX negli Stati Uniti, quindi gli andrà bene, dai. Sì. E quindi io non vi faccio sentire un pezzo del prossimo disco, perché tra l'altro non è ancora uscito, uscirà a marzo negli Stati Uniti. Però io l'ho già sentito. Ah, sì? Sì, sì, si trova. E invece io vi faccio ascoltare un pezzo che hanno fatto con Lil Wayne, il rapper. Ah. Sì. È una combinazione, non so, un po' strana così. Però che si trova, mi sembra che era su Pitchfork. Si poteva scaricare su Pitchfork. Sì, sì, sì. Vabbè, quindi ascoltiamo My Way, JJ con Lil Wayne. Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to. Because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's gonna happen when I get out of here? Sleep by now. I'm sorry. I'm fine, divine, I'll shine too. Oh, oh. E quindi questa era JJ con Lil Wayne con il pezzo che si chiama My Way. E adesso... sì, non... no, Lil Wayne che tra l'altro non è che mi piace tantissimo. Nemmeno a me. Infatti il tocco che ci ha dato nella canzone non è il massimo. No. Invece cambiando discorso, anche l'elettro scandinavo è stato influenzato dall'italo disco e dall'Eurobeat. Wow. Lo sapevi? Sì, sì. Abbiamo ben due esponenti tra le più cioè abbastanza famose anche in tutto il mondo. La prima è Sally Shapiro, che è lo pseudonimo di questa cantante svedese di cui non si sa quasi nulla. Non si sa né il nome vero né nulla sulla sua vita, tanto che non fa nemmeno concerti live. Mm. Sì. Wow. Speriamo di vederla prima o poi, magari cambia idea. Ha fatto uscire due dischi, il primo nel 2007, che si chiama Disco Romance, e l'anno scorso nel 2009 è uscito Guilty Pleasures, e noi ci ascoltiamo una canzone dal secondo disco che si chiama My Fantasy. You came from Abbiamo sentito Sally Shapiro con My Fantasy, mentre questa era Colletta Paris. Colletta Paris è un duo di Stoccolma, sempre siamo in Svezia, che nell'aprile 2008 ha realizzato il primo album che si chiama Secret Eyes per l'etichetta Sky Writing Records. Chiara, mi sembrava... Non apprezzato. Intanto no, sto facendo dei grand'anni con i CD. No, io non ho apprezzato perché mi sembravano un po' troppo alla Alcazar. Ma dai, ma cosa dici? Sì, non no, è per nulla vero. Vocine poi, così, poi tu dovresti essere un po' blanda. Fan dell'Italo Disco. Sì, ma l'Italo Disco c'è più sangue. Sì, però con più Svezia è questo il risultato. Non lo so. Sì, sì, sì. Comunque passiamo ad un altro gruppo che sono un po' allergici alla notorietà e che infatti sono diventati famosi pur non esibendosi mai live, come Sally Shapiro, no? All'inizio però. All'inizio, sì sì sì sì. E infatti quando hanno vinto il Grammys, che è la versione svedese dei Grammy Awards, come miglior gruppo pop nel 2003, hanno mandato a ritirare il premio due rappresentanti del gruppo artistico Unfucked Pussies, che insomma sono un gruppo sempre svedese. travestiti tra l'altro da gorilla per protestare contro lo strapotere degli uomini dell'industria musicale. Anche ultimamente hanno ritirato un premio e hanno tipo fatto un piccolo tributo a Lady Gaga, prendendola in giro. Sì, meno male. The Knives sono un gruppo quindi electropop formato da, guarda, io ci provo, Olf Dreijer e Karin Dreijer Andersen, fratello e sorella nativi di Stoccolma. Quindi hanno per prima, sono usciti nel 99 con il primo disco omonimo The Knife, sì, oppure nel 2001. Oddio, che domanda difficile. Nel secondo 2001. Me hanno iniziato a suonare nel 99. Diciamo che è uscito nel 2001. Sì, è uscito nel... E che ha, insomma, guadagnato consensi fin dall'inizio. Hanno un modo molto originale di mescolare elettronica e pop insieme ai synth e anche a delle atmosfere notturne e glaciali, e sperimentano anche abbastanza, diciamo, no? Sì, molto. Sai che l'ultimo disco è un'opera. Un'opera? Sì, l'ultimo disco esce nel 2010. Uh-huh. E è un progetto che nasce da una collaborazione con una compagnia danese che si chiama Hotel Pro Forma, e per la quale hanno scritto le musiche dello spettacolo, si chiama Tomorrow in a Year, ispirata all'esplorazione di Darwin e all'origine della specie. Wow. Sì. E in sottofondo stiamo ascoltando Heartbeats, che è insomma il pezzo che gli ha dato anche forse più notorietà, grazie a una cover fatto da un songwriter svedese, José González. E sempre nello stesso anno Karin presta la sua voce al singolo dei Roig Soap, What Else Is There, e quindi diventano famosissimi, molto molto molto famosi. Quindi adesso andiamo a ascoltare. Marta, l'hai scelta tu? Ho scelto una traccia del primo disco, appunto, The Knife. La traccia si chiama, cioè il pezzo si chiama Kino. questa sera siamo in disaccordo. A Chiara non è piaciuta nemmeno Kino dei The Knife. Vabbè. Comunque, senti, no, non mi è piaciuto, però vabbè, serve anche questo Moon Talk, ad ascoltare cose che solitamente non si ascolterebbero. Ma ti piacerà, prima o poi ti piacerà. Me lo devo iniettare, forse. E passiamo invece ai Fever Ray, che appunto sono nati come prodotto, se vogliamo, anche dei... mi viene The Knife, proprio perché la cantante, quindi Karen Elizabeth Anderson, del 75, è appunto uno dei del duo di The Knife, formato appunto con il fratello Drazier. E precedentemente, tra l'altro, era la cantante e chitarrista del gruppo alternative rock Honey Is Cool. Karen pubblica il suo primo album solista di debutto nel 2009 sotto lo pseudonimo di Fever Ray. Il suo stile vocale è inconfondibile, contemporaneamente squillante e profondo, caratterizzato dalla sua particolare pronuncia svedese, appunto, combinato e distorto tramite effetti di ogni tipo, mentre sul palco tende a caratterizzare tramite l'uso di maschere e altre... Io ho visto proprio quest'estate live di Fever Ray, è molto bello, soprattutto dal punto di vista scenografico, però molto statico. Ah sì? Sì. Statico in che senso? Che lei stava ferma lì con le sue maschere, non si vedeva nemmeno quando apriva la bocca, cioè proprio il minimo. E quindi, mentre The Knife sono adesso in pausa, Karen ha rilasciato il suo ultimo, appunto, album di debutto, e sotto l'etichetta, tra l'altro, Rabin Records in Europa e sotto la Mute Records nel mercato nordamericano. Quindi andiamo ad ascoltare, non mi ricordo. Ascoltiamo. Non mi ricordo. When I Grow Up, Fever Ray. Forest. E quindi questo era Fever Ray con, non mi ricordo, When I Grow Up, Fever Ray, quindi Karen Elizabeth Dre Anderson, parte dei The Knife. Nel 2005, tra l'altro, la Anderson collaborò con la sua voce per What Else Is There dei Roig Soip, è inclusa nell'album The Understanding. Nel 2008 collabora per la canzone Slow dei Deus, inserita in Vantage Point. E nel 2009 di nuovo con i Roig Soip per This Must Be It e Tricky Tricky, che Tricky Tricky mi piace molto. Quindi parliamo dei Roig Soip, appunto, che abbiamo introdotto con la Anderson, che è un gruppo invece norvegese di musica elettronica, originario di Tromsø. Spero che si dica così. Sicuramente. Giusto. Tromsø è una città norvegese situata a nord del circolo polare artico, che ha dato origine ad altri gruppi norvegesi di livello internazionale con il Bel Canto e Biosphere. E infatti dicono che insomma, l'unico modo di evadere è costituito dalla passione per la musica e per la fantasia. Infatti sono gruppi molto che fanno perno, insomma, sulla potenza della fantasia, diciamo. E i due si conoscono a un corso di lingua a metà degli anni Ottanta e, dopo aver scoperto di avere gusti e passioni in comune, incominciano a suonare. E dopo un po' si perdono di vista e poi si rimettono assieme per formare i Roig Soip nel 1998. Sfornano un paio di singoli che sono tra l'altro inseriti in una dozzina di compilation chill out, e poi diventano uno dei fenomeni discografici nel 2001 con l'album Melody AM. Melody AM, questo album spazia dalla sonorità più decisa come Apple and Poor Lemon e Roig Soip's Night Out ad atmosfere nordiche in The Space She's So e A Higher Place. La critica inserisce il disco nella cerchia degli album elettronici fondamentali, infatti penso che tutti li conoscono un po', i Roig Soip. 1 milione di copie vendute in tutto il mondo, un tour a fianco dei Basement Jacks e Moby e un'apparizione al Glastonbury e una nomination ai MTV Europe Music Awards. Quindi andiamo ad ascoltare Poor Leonard, che è appunto un pezzo del primo disco che si chiama Melody AM. Roig Soip. Thank you. quindi questa era Roixoib con Paulino. Appunto, siete su Moontalk, Città del Capo, Radio Metropolitana 94.7, 96.250. Moontalk che stasera vi sta facendo ascoltare Electro Scandinava. Scandinavo. Sì. Scandinavo. E dopo la Norvegia dei Roixoib, passiamo alla Finlandia. Vi parlo di questa attrice finlandese che si chiama Malla Malmivaara, che ha un progetto musicale che si chiama Bell Who. Niente, è uscito soltanto un disco nel 2009 per la Dynasty Record, sì. Mm-hmm. E il disco si chiama Can't Whistle When You Smile. Non ci sono praticamente altre informazioni sulla carriera musicale di Bell Who. E vi faccio sentire un pezzo del disco che si chiama Boy. Boy di Bell Who. Ci piace? A te no, sicuramente. Un po' troppo pulito per me. E adesso invece chiudiamo con Lick Lee, che... Perché lei sicuramente ti piace, Lick Lee. Speriamo. Che non, sicuramente non saprò come pronunciarlo, ma il suo nome è Lick Lee Timothy Zach. Kiros. Non lo so. Sì, comunque ha fatto soltanto un album nel 2008, Youth Novels, ma diciamo ha fatto tantissime collaborazioni che sicuramente l'hanno aiutata. Tra l'altro questo album Youth Novels è stato prodotto da Peter Bjornenjohn. Sì. Quindi. E poi ha fatto altre collaborazioni con sempre Heroic Soap e Care Loop, che non so chi sia, e Kings of Leon. Insomma, ma ha fatto molte cose, tra cui la cosa più importante della sua carriera, la canzone Possibility, che è stato scritto forse per, no, che è stato scritto per il film New Moon. L'hai visto? Sì, ma un po' di tempo fa. Addirittura. Sei proprio una fan accanita di Robert Pattinson, che sei andata a cercarlo. No, prima. No. Poi tra l'altro ha fatto questo EP da cui sentiamo appunto le Soul Beat nel 2007, quindi chiudiamo con Lickely. Ci trovate quindi sul nostro blog www.montolcredio.blogspot.com, e annunciamo che la prossima puntata sarà molto più, avrà molto più spessore, verve e soprattutto spessore, perché Marta genialmente, aggiungerei, su Rai 1 c'è Sanremo e quindi noi facciamo una puntata su un Sanremo. Sì. Quindi a mercoledì prossimo, sempre su Città del Capo Radio Metropolitana. Ciao, vi lasciamo con Lickely. Struck me by the hair, 'cause I would